B. Il biglietto. 1. Ascolta il dialogo. Ci aiuti? Certo! La nostra agenzia di viaggi ci ha pregati di spedire la scansione del nostro biglietto aereo. Devono riceverla appena possibile per cambiare la data di ritorno. Resterete qualche giorno in più o qualche giorno in meno del previsto? Purtroppo qualche giorno in meno. Dobbiamo tornare prima perché abbiamo un problema con il nostro cane. L'abbiamo lasciato a casa di mia sorella. Questa mattina abbiamo telefonato a mia sorella e ci ha informati che partirà per un viaggio alla fine del mese. La comprendo bene. E ora noi dobbiamo anticipare il ritorno di 5 giorni. Sul serio? Sì, sì, sul serio. Avete i biglietti? Sì, eccoli. Li ho messi nello zaino prima di uscire. Li scansiono subito. Ecco fatto. Va bene? No, non va molto bene. Qui non riesco a vedere se è il numero 1 o la lettera L minuscola. Allora, ne possiamo fare un ingrandimento? Sì, sì, grazie. Così va proprio bene. Perfetto. Se scrivi qui l'indirizzo email dell'agenzia, spedisco subito un'email. La spedisci tu? Sì, posso inviarla dalla segreteria. Grazie. Ho 2 indirizzi. Li scrivo tutti e 2. Va bene. Grazie mille. Di niente.